La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Laudato sie, mi signore, cum tutte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale iorna e t'allumeni noi per lui, e te lo è bello e radiante con grande splendore, de te, altissimo, porta significazione. Laudato sie, mi signore, per sora luna e le stelle, in cellula hai formate clarite et preziose et belle. Laudato sii, mi signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et ogni tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sii, mi signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sii, mi signore, per frate fuoco, per lo quale innallumini la notte, et te lo è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato sii, mi signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori et erba. Laudato sii, mi signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Ho cominciato, in onore del Papa Francesco I, con alcuni versi del Cantico delle Creature attribuito a San Francesco d'Assisi. Quando è stato annunciato che il nuovo Papa aveva assunto il nome di Francesco I, c'è stato un momento di grande entusiasmo. Tutti hanno pensato a San Francesco d'Assisi. Perché? Perché ci pensavamo già da prima, perché è quello che desiderano credenti e non credenti, un ritorno al Vangelo, che la Chiesa rinunci agli scandali mondani e abbia il coraggio di tornare allo scandalo della povertà. E quando ancora si stava aspettando la fumata bianca, Radio 24 ha intervistato uno dei 100.000 in attesa in Piazza San Pietro e lui ha detto: spero che si chiamerà Francesco I. Poi però ho sentito Melog di Gianluca Nicoletti, il quale ipotizzava che il nuovo Papa, che appartiene all'ordine dei Gesuiti, si ispirasse invece a Francesco Saverio, il gesuita del XVI secolo, compagno di studi e anche seguace di Ignazio da Loyola, il santo soldato. Francesco Saverio fu missionario in India e sappiamo che missionario in quel contesto voleva dire essere al fianco di colonizzatori spietati presso popoli da opprimere, sfruttare e ridurre all'obbedienza, l'opposto della predicazione del Cristo. La prima apparizione del Papa Francesco I al balcone, in ogni caso, faceva una bellissima impressione per questa sua cordialità, questa semplicità senza retorica. E allora, qualsiasi sia stata l'intenzione del Papa nello scegliere questo nome, Francesco, come augurio, come atto di speranza per quel nome, abbiamo pensato di farvi riascoltare la storia di San Francesco e il Soldano, un mio raccontino che avevo già letto tempo fa. La guardiana del faro. È sempre più forte la tendenza scellerata a dividere il mondo in due, fra Oriente e Occidente, e si è inventato e alimentato lo scontro di civiltà per legittimare poi delle sporche guerre sante col pretesto di culture e religioni inconciliabili. Pensiamo all'Afghanistan, pensiamo all'Iraq. Oggi vorrei raccontarvi una delle più belle leggende cristiane, secondo la quale San Francesco andò in Oriente per convertire il sultano Al-Malik al-Kamil durante la Quinta Crociata. Lo spirito è quello dei fioretti, dove il miracolo è cosa quotidiana e dove la santità è l'allegria. Ecco, vorrei immaginarlo come un film, anzi meglio come un fumetto, che somigli a un quadro medievale azzurro e oro, come nel Giotto degli Scrovegni, e vi appaiono i diavoli, gli angeli, i santi in volo e il sangue versato dagli uomini, sempre più vivo, sempre più ingiusto, che rende la parola di Francesco, quasi 1000 anni dopo, rivoluzionaria come non mai. Sappiamo bene la storia di Francesco, figlio di un ricco mercante di stoffe di Assisi, era l'orgoglio di suo padre, superbo, magnificamente vestito, spadaccino, rimatore, nelle liti aveva sempre l'ultima parola ed era il più bel giovane della città. Era l'idolo delle donne e con la sua brigata conduceva una vita dissoluta. Scoppiò la guerra fra Assisi e Perugia e Francesco e i suoi amici corsero a combattere. Ma appena Francesco ebbe trafitto con la spada il suo primo nemico, per divina grazia vide al suo posto Gesù, che con l'ultimo respiro del moribondo gli disse: «Ah, Francesco, mi hai fatto male. Non devi uccidermi mai più». Fu allora che Francesco gettò la spada e cadde prigioniero. Nella fortezza Gesù gli veniva in sogno e con faccia triste gli diceva: «Che cristiani siete voi? Io non sono venuto a insegnare questo. Non solo vi odiate, avete dimenticato la povertà». E mostrò al giovane i ricchi tesori della chiesa e le vesti scintillanti dei prelati. Francesco capì l'abisso tra la parola di Cristo e la chiesa, fra Cristo e i cristiani. E Gesù gli disse: «Almeno tu ricordati del Vangelo». Da quel momento Francesco si sposò con la povertà e si diede tutto a Gesù. Torna dalla prigionia e il padre è disperato, non lo riconosce più. Francesco è diventato umile, è diventato mite. E si è messo a servire i lebbrosi. Ma la cosa peggiore che fa disperare il padre, sta dissipando i denari invece che in bagordi in elemosine e vuole dare tutto ai poveri. È pazzo, bisogna neutralizzarlo. E gridava il padre: che gli hanno fatto i perugini? Non sapeva che era stato Gesù. E così trascina il figlio dal vescovo per diseredarlo e perché restituisca quanto ancora in suo possesso. Ma Francesco ha finito tutto, non ha più niente e gli restano solo gli abiti. E allora si spoglia nudo, come Gesù sulla croce, a simbolo di rinuncia, con grande scandalo del vescovo, e dice al padre: «Senti, è tutto quello che ho, riprenditelo». E così, mentre prima che era cattivo era rispettatissimo, adesso che buono, tutti gli ridono dietro, gli tirano i sassi, a volte lo bastonano. Lui non si difende, anzi dice che questa è la perfetta letizia, la più dolce comunanza con Gesù. Però altri giovani lo seguono, accesi della sua fede, e fonda con i primi compagni l'ordine dei frati minori. E anche Chiara, una nobile fanciulla, chiede di votarsi a Gesù. E nasce l'ordine delle povere donne. Chiara ha 15 anni, Francesco 20. La santità è un gioco soave e anche uno scandalo. Per la Chiesa Francesco è un ribelle pericoloso. La sua predicazione minaccia le basi della vita sociale, la Chiesa, la guerra, il guadagno. E, cosa ancora più grave, Dio è per lui un essere benevolo e giocondo, non è il castigatore implacabile con cui i preti dominano le folle. I fedeli sono dalla sua parte, perché lui, dovunque passi, semina prodigi. Dalla roccia fa sgorgare una sorgente, guarisce un lebbroso con un bacio e addirittura libera Gubbio da un lupo feroce che diventa mansueto come un agnello. Fra Chiara e Francesco c'è un amore infinito. Un'intesa ridente fra questi due ragazzini ribelli alla ricchezza dei padri, questi due piccoli stravaganti che parlano con gli angeli, Romeo e Giulietta in Dio. E poi c'è il nemico, e il nemico dei miracoli di Francesco è Malatasca, il demonio, che non combatte e cerca sempre di indemoniare i suoi frati. Un giorno Fra Masseo, uno dei primi compagni di Francesco, di solito pieno di grazie, ad un tratto smania, bestemmia, picchia i frati, e Francesco si accorge che c'è un demoniaccio peloso che lo tiene stretto. Gli ordina di lasciarlo, ma quello tira fuori un bastone, il diavolo, e picchia il santo. Passano il corpo a corpo finché Malatasca diventa grandissimo, spalanca la bocca e in un boccone si mangia Fra Masseo. Poi lo risputa, ma Francesco riesce a tracciargli sopra il segno della croce e il tentatore sparisce in una fiammata. E allora Masseo lo abbraccia e gli dice: «Francesco, dove andrai tu, andrò anch'io». Francesco sta predicando agli uccelli e Chiara e sua sorella lo guardano ammirate, finché arriva un pellegrino stracciato e coperto di polvere e aggredisce Francesco e gli dice: «Che bisogno hanno gli uccelli delle tue parole? Comodo predicare alle bestie. Io sono stato in Terra Santa a convertire i saraceni e quelli non scherzano. Guarda, si alza la tunica e c'ha questo corpo pieno di cicatrici». Chiara, ammirata, si avvicina, tocca le ferite, piena di entusiasmo. Ecco i segni del martirio. San Francesco ci rimane male, è geloso e da quel momento decide di andare in Terra Santa. ma farà molto più del pellegrino. Convertirà il sultano. E alle peggio, se non ci riesce, morirà martire. E comunque avrà l'ammirazione di Chiara. E Chiara a questo punto non vorrebbe che partisse. Invece il Papa, Innocenzo III, che teme la rivoluzione di Francesco e non vede l'ora di levarselo dai piedi, lo appoggia con entusiasmo. In Oriente infuria la quinta crociata e c'è da sperare che non torni più. Frate Masseo lo accompagna. Francesco va a salutare Chiara, che è affranta per la separazione. Lui parte per fare lo sbruffone con lei, ma non può lasciarla così triste. Per consolarla, le insegna come fare per sapere in qualsiasi istante dove lui si trovi. Basterà che tracci una croce sul muro della cella e lui le apparirà. Non a caso, Santa Chiara diventerà in seguito la patrona della televisione. Fra Masseo e frate Francesco partono, arrivano al mare, ma non hanno un soldo. Nessuno vuole prenderli a bordo. Francesco trae dalla tunica una noce, la spacca, metà la dà a Masseo perché si sfami e lui si sente sazio, l'altra metà la butta nell'acqua. Il guscio di noce si gonfia, si ingrandisce, diventa una barca. E così Francesco e Masseo veleggiano verso la Terra Santa. Li cogliono a burrasca, ma due angeli, con le loro vesti svolazzanti azzurre, sorreggono il piccolo legno in mezzo ai flutti. Francesco arriva al campo dei crociati dopo alcune spiacevoli avventure. Molto malmesso, tra l'altro, ha perduto Masseo, che è stato catturato dai saraceni ed è sparito nel nulla. L'esercito cristiano sta assediando Damietta, che è difesa dal sultano Al-Malik al-Kamil e proprio l'uomo che Francesco vuole convertire. Intanto vede litigare selvaggiamente i capi cristiani, Pelagio e Re Giovanni. Si odiano più fra di loro che col nemico. E c'è la battaglia. Per via di ordini contraddittori è una carneficina. Finché le truppe italiche fanno dietro fronte dandosi alla fuga. Il panico è generale, i crociati sospendono il combattimento, i capi sono furibondi e invece nella disperazione generale Francesco esulta, grida, canta, cammina sulle mani, ringrazia Dio per quei soldati che sono fuggiti pur di non uccidere né farsi uccidere. Finalmente dei buoni cristiani. Sentendo questo, i crociati gli saltano addosso, lo picchiano di santa ragione. Ma come fai l'elogio dei vigliacchi? Ma chi è questo traditore? In quel momento Chiara, sul muro della sua cella, fa il segno della croce, come lui l'ha insegnato, per sapere notizie. Ed ecco, con un miracoloso telegiornale, prima del telegiornale, vede Francesco al campo cristiano, malmenato dai crociati. Quando Pelagio poi sente che lui vorrebbe andare dal sultano, quasi quasi che lo fa passare per le armi, gli fa una scenata, i nemici non si convertono, si uccidono. Ed ora in poi, tieni per te le tue strane idee o ti faccio tagliare la lingua. Ma Francesco continua a dire che sbudellare il prossimo è peccato. Allora gli mettono la mordacchia come bestemmiatori perché non confonda le truppe. Ma Francesco riesce a liberarsene e quella stessa notte scappa dal campo cristiano e va alla porta della città assediata per parlare col sultano. Le guardie lo acciuffano, lo prendono per una spia, lo frustano, lo insultano, danno l'allarme, il sultano si sveglia e dalla finestra vede una cosa mai vista. Più le guardie si accaniscono sul pellegrino, più lui è contento, ride, canta e grida «Ancora, ancora, fatemi più male, che io sono un furfante e ladroncello vilissimo!» Non gli basta mai. Spiega a quelli che non lo capiscono che in ciò è la perfetta letizia. Più parla e meno lo capiscono e più lo malmenano. Il più grosso dei due si accanisce particolarmente a picchiarlo sull'orecchio e Chiara, che sta lavorando nell'orto, d'un tratto ha una smorfia di dolore e si tocca l'orecchio. Proprio dove il soldato ha appena colpito Francesco. Corre a casa, accende col segno della croce la sua pretelevisione murale e vede Francesco malmenato anche dai saraceni. Il sultano non capisce cosa dice Francesco, ma capisce che quell'uomo così gentile non ha le rotelle a posto e ordina ai soldati di slegarlo all'istante, di medicarlo, di rifocillarlo e di trattarlo col rispetto che si deve a un pazzo di Dio. La guardiana del faro. raccontando la leggenda del viaggio di Francesco in Terra Santa, quando durante la quinta crociata va laggiù per cercare di convertire il sultano al Malik al-Kamil. Francesco viene ammesso alla presenza del sultano e della sua corte. Racconta di Gesù, degli angeli e del demonio in un modo così espressivo, montando da solo un tale teatro fantastico che tutti lo ascoltano rapiti, meno uno, l'eunuco del sultano, Hakim, che muore di invidia perché lo considera un rivale in quanto è geloso del favore del suo protettore. Quando ha finito, Francesco si guarda intorno e intorno queste facce così luminose, così benevole, che crede di averli convertiti tutti. Ma non è vero. È successo qualcosa di ancora più grande. Li ha fatti divertire. E loro hanno sentito, attraverso la sua persona, il suo Dio di letizia. Hakim sussurra al sultano di non fidarsi del frate. È uno spia, non è venuto da solo. Ne è stato appena catturato un altro. Ed è Fra Masseo. Francesco gli si butta tra le braccia con gioia e Fra Masseo in prigionia ha imparato un po' la lingua e con questo arabo sgrammaticato racconta al sultano i miracoli di San Francesco. Dove gli mancano le parole, disegna un ingenuo poema a fumetti sul pavimento di questi santi prodigi. E allora Hakim, malignamente, suggerisce al sultano di metterlo alla prova. Ben visto Francesco, anche perché in quel momento da Mietta assediata c'è un grave problema, scarseggia l'acqua e gli assediati hanno sete. Portano Francesco, il miracolo più urgente è far venire l'acqua, portano il santo davanti alla roccia e gli ordinano, come gli ha spiegato Masseo, di fare sgorgare l'acqua. Allora Francesco si accinge, glielo dice una, due, tre volte, ma la roccia niente, non se ne dà per intesa. Hakim trionfante chiede al sultano la testa di quei due impostori. Ma il sultano ama Francesco. Solo vederlo gli mette un buon umore fanciullesco e gli dà un'altra possibilità. C'è una iena feroce che fa strage. Provi ad ammanzirla come ha fatto col lupo di Gubbio. E allora il santo affronta la iena e fa come col lupo, la rimprovera. La bestia lo ascolta. Ma quando gli porge la mano, gliela zanna, lo getta per terra e sta per sbranarlo, glielo devono levare dalla bocca. Il sultano ci prova ancora col lebbroso, ci prova con tutto, ma niente. I miracoli non gli vengono più. Fra Masseo è disperato. Frate Francesco, ma non senti più la voce di Dio? Fra Masseo, la sento, ma non la capisco. E il fatto è che hanno cambiato terra e allora Francesco non sente più la voce di Gesù, ma solo quella di Allah. Allah gli parla in arabo e lui non lo intende. Una voce suadente, bellissima, ma incomprensibile. Allora Hakim decise di tentarlo per far vedere che lui non è santo. Fra Masseo ha spiegato al sultano che Francesco ha sposato la castità e allora decidono di metterlo alla prova mandandogli una bellissima ragazza nuda. Hakim e il sultano, nascosti, gli spiano. Francesco accoglie con entusiasmo la ragazza e le dice: «Va bene, andiamo a letto». Proprio in quel momento Santa Chiara d'Assisi lo sta guardando. Vede Francesco che prende la vita della ragazza e, sterrefatta, fa un rapido segno della croce sul muro e spegne il collegamento. Peccato perché si perde il resto, perché in quel momento, come raccontato anche nei fumetti, Francesco dice «andiamo a letto» e la porta davanti alla bocca del forno. La invita a giacere con lui in quel letto spiumacciato e confortevolissimo e sta per entrarci davvero, perché dice «meglio le fiamme di qua che quelle dell'inferno, che sono eterne». Però il sultano ride di questa cosa, ma c'è qualcosa che mette in pericolo Francesco e Masseo più degli intrighi di Hakim. La notizia che i cristiani hanno raso al suolo un intero villaggio abitato solo da donne e bambini, come anche facciamo noi in Afghanistan, uccidendoli tutti. I parenti gridano e piangono e si vorrebbero vendicare dei due frati. Si impone la condanna a morte. Ed ecco, nei giardini del palazzo c'è questa grande riunione. Il sultano con i suoi dignitari, il boia è pronto con la sua ascia. E allora Hakim lo prende in giro, mentre ha già la scimitarra sul collo. Francesco gli dice: «Perché non fai adesso uno dei tuoi miracoli per salvare te e il tuo compagno? Intanto i crociati sono alle porte. La resistenza di Damietta è al limite». E il sultano sente come uno strano frescolino sul viso mentre sta nei giardini e mentre stanno per decapitare Francesco. Guarda fuori, getta un grido, anche gli altri guardano in giù e si accorgono che i giardini del sultano e Damietta, tutta la città di Damietta, si è sollevata da terra. La città sta volando, lontana dall'assedio, lontana dai crociati, lontana dalla morte. Nel sole, e intanto si comincia a sentire un suono allegrissimo, una specie di concerto che scroscia. Prima sembrano risatine, sussurri, risate, ma è l'acqua. Tutte le fontane dei giardini cominciano a buttare acqua e si riempiono in un baleno le piscine dei ricchi e i secchi della povera gente. E quindi Francesco è salvo. E mentre la città plana dolcemente verso un luogo lontano dall'esercito cristiano, Francesco è rapito da un sogno e Allah come un grande magnifico uccello, e allora capisce la sua parola, perché lui capisce la lingua degli uccelli. Francesco sale sulle sue ali e sorvola tutto il mondo grande e piatto, e si accorge che la forma delle montagne disegna ora la faccia di Gesù, ora quella di Buddha o quella di un dio sconosciuto. Sono sempre io, gli dice Allah in forma di uccello, questi sono i miei volti. La città plana, Francesco si sveglia e non vuole convertire più nessuno. Vuole tornare da Chiara con questa nuova beatitudine. Vuole dirle cosa ha visto. Ma Chiara ad Assisi è gravemente malata. Sta per morire. Le hanno già somministrato l'estrema unzione. Sulla parete l'immagine di Francesco non è tornata più. Chiara è sicura che sia morto e affretta di rivederlo in cielo. Con le ultime forze traccia un debole segno di croce sul muro e appare Francesco. Insieme a Masseo. In Terra Santa? Ma no, le pare di riconoscere il posto. E sono a Santa Maria degli Angeli. Sono vicinissimi e stanno camminando di buona lena. Francesco dice al compagno: perdonami se ti lascio, fratello, ma la mia gioia di rivedere Chiara mi ha messo le ali. Così dicendo, come suo solito, si leva rapidamente in volo per andare a raggiungerla. E lei lo vede dalla finestra, le torna il colore sul viso. Si alza sul letto, direttamente in volo, vola dalla finestra, incontra Francesco. Lui la prende per mano e mentre si librano sotto il cielo, le mostra ciò che ha appreso nel suo viaggio. Chiara, al posto delle costellazioni, vede il volto di Gesù, di Buddha, di Allah, di altri dei. Volano insieme nel cielo e poi atterrano, ognuno nel suo convento, mentre le stelle cominciano a sbiancare dolcemente. Il ginnasio ad Assisi, già da allora, che tanti anni fa, era quasi l'Ottocento, Assisi era un succo del divino, tutto il paradiso in vendita. C'erano frati Boccali, frati Penne, radiofrati, persino frati Vasi da Notte, nelle bancarelle intorno alla Basilica di San Francesco. Ai piedi della collina, a Santa Maria degli Angeli, sfolgora quella cupola bella del Vignola, come dice Carducci, e Francesco morì nella Porziuncola, che era allora una minuscola casupola. E in onore della sua semplicità gli hanno retto attorno un tempio babilonese con colonne altissime e in cima una Madonna gigante, un enorme giunone cristiana tutta d'oro con due manone così. E negli anni 50 correva voce che la Madonna si muovesse. Suggestione o realtà, vennero a frotte devoti da tutta Italia. E la povertà di San Francesco, come la povertà di Gesù, hanno fruttato alla Chiesa un tesoro inesauribile. Dov'è Dio? Nel paradosso. puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Vi leggo la lettera di Gigi a proposito della fiction che Rai 1 ha trasmesso sulla vita di Domenico Modugno, interpretata da Beppe Fiorello. Ho 79 anni, musicista dilettante. Ero e sono un grande amante di Domenico Modugno. Sono stato un suo groupie prima che si conoscesse questa parola in Italia. Viaggiando in autostop non mi perdevo un suo concerto. Quando ho messo su una piccola band, arrangiavamo i suoi pezzi, ma nessuno si è mai azzardato a cantare le sue canzoni. Ho visto la fiction in TV e sono rimasto incredulo. Come si fa a far interpretare Modugno da Beppe Fiorello? Con quella faccia da cucciolo abbandonato, da uomo rassegnato, con una personalità e una gestualità che è l'opposto. Gesticolava come gli attori americani quando interpretano un italiano. I più giovani, che non hanno mai conosciuto Modugno, avranno completamente frainteso la sua importanza. Modugno non era un giovanottino di talento, ambizioso e allegro. Modugno era un vulcano. Scoppiò sulla nostra gioventù come un uragano di energia, di audacia. Era un creatore di energia. Era la sensualità pura. Era la passione. Era il sud. Modugno era il sesso. Le sue canzoni facevano fare l'amore. In quell'Italia bigotta lui cantava «Non m'importa do passato, non m'importa chi t'ha avuto». Resta con me. Modugno era un sole, era una forza irresistibile, era un trascinatore, era uno sparviero con le donne. E vedere questo santino, Beppe Fiorello che fa Modugno, vestito da Modugno, mi ha stretto il cuore. Beppe Fiorello è un ottimo attore, ma i ruoli adatti a lui, come quello del santo napoletano Moscati, ma come può, con quella faccia mesta, quello sguardo fra timido e calcolatore, una personalità indefinibile, mite in pubblico, ma un amico mio ha fatto la comparsa in un suo lavoro e mi ha detto che sul set è una belva, si dà un'importanza da boss, al contrario di suo fratello Rosario che alla mano è sempre allegro. Ma questi sono pettegolezzi, non lo conosco di persona. Quello che proprio mi ha sconvolto quando ho visto che Fiorello osava cantare Modugno. Che impudenza, che scempio. Sovrapporre la sua vocetta educata da festa in famiglia a quella voce di potenza demoniaca che era la voce di Domenico Modugno. Quando lui cantava Volare era una proposta di vita, era un volo. Ma perché la TV si ingegna sempre ad ammazzare le grandi personalità, riducendole alla meschinità culturale pavida e conformista di oggi? Il tuo desolato, Gigi Rotondo. Caro Gigi, io ti do pienamente ragione, senza rimorsi, anche perché non parliamo di una pièce perseguitata. Questa fiction l'hanno vista 10 milioni di spettatori che non sono d'accordo con noi. Anch'io quando l'ho visto credevo che sarebbe scoppiata una rivoluzione critica. Invece tutti compiaciuti, tutti hanno esaltato quest'opera. Poveri morti, sono in balia di chiunque voglia snaturarli. Ma la voce resta. Resta con me, per carità, stata con me, non me la sa, fammi penare, fammi impazzire. Fammi danna, ma dimmi sì, muore per te, vive per te, vita da vita mia. Do passato, non m'importa, e chi t'ha avuto resta con me. La storia dei due Marò io me l'immagino vista da un bambino, non da un bambino piccolo, un bambino di 9 anni, grandicello, che non ha voglia di studiare. fa finta di star male per non andare a scuola, ma lo scoprono e ce lo mandano per forza. Viene punito dalla maestra, la quale si accorge che i suoi temi li ha copiati tutti su internet. Il bambino appena può frega le cose dagli zainetti dei compagni, però non è abile e si fa beccare. È anche un bulletto. Fa il buono con quelli più forti, ma prende a cazzotti i più piccoli. Un giorno ne concia uno proprio male, gli rompe il naso e stavolta la maestra lo sospende. Questo bambino ha la sfortuna di avere due genitori che sono fra gli ultimi che, se il figlio è asino e violento, non vanno a menare gli insegnanti, ma se la pigliano con lui. E quindi per un mese lo lasciano senza paghetta e senza PlayStation. E allora il bambino capisce che fare i furbi non conviene. Non è che per questo si formi una coscienza morale, però si adegua alle regole. E i temi si sforza di farli, smette di rubare e non prende più a cazzotti i compagni deboli. Poi viene a sapere la storia di questi due marò italiani che hanno ammazzato due pescatori indiani. Dice che li hanno scambiati per pirati e hanno sparato. E magari è vero, però intanto quelli sono morti e gli italiani devono affrontare un processo. E i genitori del bambino commentano: ma guarda il Kerala, che paese civile, lì ancora non è come da noi, perché le vite di due pescatori valgono ancora qualcosa. Il bambino pensa che è giusto, che c'è una legge, che gli sbagli si pagano come ha pagato lui. Poi invece viene a sapere che per le elezioni in Italia gli indiani li hanno fatti tornare a votare, fidandosi dello Stato italiano, col patto che torneranno indietro subito, e invece quelli non sono tornati. E non è che sono scappati. Lo Stato italiano ha deciso di mancare di parola. Quindi il bambino si sente truffato. Ma come? Io non posso fare il furbetto, ma lo Stato sì? E allora pensa, tiè, ce li hanno ridati? Ma che fessi sti indiani, v'abbiamo fregato. Ma che mi raccontano i genitori? Intanto vicino di casa un vecchio musicista ruba due scatole di tonno al supermercato e lo arrestano. Dato che da giovane ha avuto una condanna per schiamazzi perché aveva suonato il pianoforte la notte, finisce in galera. Il bambino si conferma nella sua idea che è meglio filare diritti. A scuola la maestra parla della Costituzione e dice che la giustizia è uguale per tutti. Però il bambino vede un signore molto importante, coi capelli tutti disegnati, che è stato capo del governo, che è ricchissimo, ed è accusato di reati più gravi dei suoi. E non si presenta ai processi con la scusa che sta male, e di nuovo pensa, oh, lui sì e io no. E si arrabbia. Vede quelli del suo partito che vanno a fare una cagnara infernale in tribunale per far paura ai giudici. Per quale ragione? Perché quest'uomo è troppo potente. Lui non è come gli altri. Nessuno può giudicarlo. Il Presidente della Repubblica gli dà anche un po' ragione e ammonisce un po' i giudici, perché quest'uomo è al di sopra della legge, mica come il musicista che è finito al gabbio per direttissima. Allora il bambino capisce che i genitori e la maestra gli hanno raccontato un sacco di balle, che sono fuori del tempo, che sono fuori della realtà. Da quel giorno continua a copiare i compiti, però sta attento a non farsi scoprire. Non va a scuola fingendo di star male, ma ha imparato a simulare molto meglio. E gli credono. Frega i soldi dai cappotti, ma anche questo lo fa con maggiore abilità, e massacra di botte il bambino gracile che ha preso di mira, però sta attento che non ci siano testimoni o solo compagni della sua specie, se poi lo beccano lui nega. Ormai ha capito tutto. E nonostante la maestra, nonostante i genitori, questo bambino si sta avviando a diventare un perfetto cittadino di questo Stato. Da con me, per carità, vita da vita mia, non mi importa tuo passato, non mi importa e chi t'ha avuto, resta con me. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.